Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Arganti, il traghettatore, ben trovati. Vogliamo cominciare raccontandovi una notizia importante, perché no, GSE, gestore dei servizi energetici, una struttura pubblica, ha lanciato un bellissimo progetto: Garantiamo energie per il sociale. Questo vuol dire promuovere e facilitare la donazione di impianti fotovoltaici da parte dell'industria, di questa industria del fotovoltaico, agli enti no profit. Ci sono già i primi risultati: la comunità di San Patrignano, l'istituto penale minorile di Nisida e la comunità Betania Bari, oltre che l'ospedale Gaslini a Genova, potranno contare su questi impianti di fotovoltaico gratuitamente. E a proposito di energia, questo weekend è dedicato alla mobilità sostenibile, una iniziativa un po' particolare, perché parte da Confartigianato, nell'ambito di Impresa 2020, e quindi ha delle caratteristiche singolari che vogliamo raccontarvi. In questo momento, per esempio, i cittadini della provincia di Vicenza, ovviamente, stanno testando a Schio auto, moto e biciclette elettriche in piazza Falcone e Borsellino, sempre a Schio. Stanno cioè toccando con mano la tecnologia a impatto zero. È un'iniziativa della Associazione Artigiani Confartigianato di Vicenza, di cui il direttore generale è con noi, Pietro Delotto. Buongiorno direttore. Salute a lei direttore. Buongiorno. Ieri 81 sindaci hanno firmato un memorandum che voi avete proposto. È singolare che sia stata una Confartigianato a proporlo, però è importante questo. Ecco, che cosa hanno firmato questi sindaci, direttore? In effetti è un po' una provocazione che abbiamo come Confartigianato Vicenza lanciato al territorio. Chiedere ai 121 sindaci di firmare un memorandum, un protocollo d'intesa per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza, le imprese, le autorità locali verso una tecnologia completamente nuova in un territorio che magari ha qualche problema di qualità dell'aria, di mobilità che dovrebbe essere un po' più sostenibile, è stato un azzardo, però che si sta dimostrando di successo, nel senso che già 81 dei 121 sindaci hanno firmato il protocollo di intesa. L'uno per l'altro più del 70%. Io posso testimoniare l'originalità dell'iniziativa, direttore, perché in genere di automobili elettriche si parla con i cittadini, con i possibili utenti, e non con le imprese con una tale chiarezza. Voi comunque fate, come dire, un discorso che riguarda sia gli uni che gli altri, sia i cittadini che le imprese. Assolutamente sì. Pensi che tra le 17.500 imprese associate a Confartigianato Vicenza, circa 10.000 imprese sono quelle che hanno una mobilità intracomunale inferiore ai 70 km giornalieri, una percorrenza che sarebbe perfetta per una trasformazione da un veicolo a motore a scoppio a un motore a impatto zero, con un risparmio energetico, un risparmio in termini di emissioni e un risparmio soprattutto economico. Concludiamo rapidamente, direttore, con un'ultima osservazione. La comunità europea su questi versanti, su questi progetti, è sempre molto attenta, quindi immaginiamo che voi puntate anche ad una relazione, diciamo, europea per la provincia. Assolutamente sì. Pensi che ci siamo candidati al laboratorio europeo per la mobilità sostenibile come provincia di Vicenza e abbiamo avuto il sostegno della Commissione europea e abbiamo già presentato dei progetti operativi per poter cominciare a infrastrutturare il territorio, sensibilizzare la domanda sia di, ripeto, di cittadini che di imprese. Bene, grazie direttore, abbiamo esaurito il tempo, interessante, a presto, alla prossima direttore. Chiudiamo con Premio Socialis. Chi gli studenti che ci ascoltano, chi ha fatto una tesi di laurea sugli argomenti di sviluppo sostenibile, welfare aziendale, profit e non profit, può partecipare attraverso il bando che scade il 15 novembre. In palio ci sono tre stage di tre mesi in una delle aziende che sostengono il progetto, Barilla, Novartis, tanto per citarne alcune. Andate sul sito RP, scritto per intero, comunicazione.it. È tutto per Ferribot, vi ricordo che l'indirizzo è Ferribot, che ho @24.it per le vostre mail, che da qualche giorno è anche attiva la pagina Facebook per relazionarsi più intensamente, ferribot-radio24. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Pietro Lacorte in regia.